Adesso pregherei la dottoressa Daniela Rando dell'Università di Trento, che parlerà sul tema il capitolo Cattedrale di Trento all'epoca dell'Inderba. Ah, no, scusate. Sì, il governo è per via degli occhiali. Il governo spirituale della diocesi di Trento, domando scusa. In base a una lista dei giuspatronati risalente ai primi decenni del Cinquecento, i principi del Tirolo risultavano controllare, tramite diritti di patronato, una parte significativa dei benefici minori, curati e non curati, della diocesi di Trento. Era il frutto di una politica perseguita con successo, in particolare nel corso del Quattrocento, e che durante l'episcopato Hinderbach conobbe una fase di accelerazione, ma anche di conflittualità. Protagonista ne fu Sigismondo, con un'azione che lo impegnò su più fronti, laici, signori di Firmiano, ed ecclesiastici, i monasteri di Weingarten e di San Michele all'Adige, il capitolo della cattedrale trentina e lo stesso episcopato. Questa azione nei confronti dei benefici minori ben s'accorda con la politica ecclesiastica di Sigismondo tracciata nelle sue linee generali da Riedmann e dal Baum recentemente e con le conclusioni circa la crescente influenza principesca cui era giunto Oskar Lechleitner nell'analizzare l'applicazione in ambito trentino dei concordati con la nazione germanica, quelli che appunto regolavano i meccanismi di collazione dei benefici. Il peso dei principi e dei governi nelle provviste beneficiarie nell'Italia e nell'Europa del Quattrocento è del resto fenomeno ben noto. Ma se l'attenzione di Lechleitner si era rivolta soprattutto ai benefici maggiori, episcopato e canonicati, va sottolineato che non minor considerazione ci fu per i benefici minori, pievati e cappellanie, secondo una tendenza riscontrabile anche negli stati italiani del Quattrocento. Mentre a Milano, a Venezia, a Ferrara, questo orientamento si espresse in una specifica legislazione, l'intervento ducale, nell'ambito qui preso in considerazione, si realizzò necessariamente su di un altro piano, passando attraverso l'acquisizione e l'esercizio dei diritti di patronato. L'area coinvolta fu quella di diretto dominio tirolese, dove, sulla volontà di controllare pingui benefici, di fatto tra i più dotati della diocesi, era di gran lunga prevalente l'interesse politico. Il giuspatronato era sentito come elemento integrante della signoria politica e ciò emerge con chiarezza nel 1477, allorché Sigismondo pretese il diritto di presentazione nella parrocchia di Salorno, incorporata al monastero di San Michele all'Adige, affermando che il giuspatronato spettasse a lui tamquam dominus e iusdem loci. Ma veniamo a Hinderbach. Con Hinderbach il contenzioso riguardò tre parrocchie, Bolzano, Tesimo e Montagna. Nel 1467, appena la pieve di Bolzano si rese vacante, Hinderbach ne rivendicò la collazione, riaprendo una questione sorta alla fine del Trecento che aveva trovato temporanea composizione con il riconoscimento del giuspatronato ducale all'epoca del predecessore di Hinderbach, Giorgio Hack. Attorno a Bolzano si intrecciavano interessi molteplici. Bolzano era la pieve di gran lunga più ricca della diocesi, era il centro commerciale più importante del Tirolo e in essa il vescovo di Trento, che in origine condivideva con i conti del Tirolo la giurisdizione su Bolzano e Kellergris, manteneva residui diritti sul tribunale cittadino, diritti che nel 1462 il vescovo Giorgio Hack, come è noto del tutto prono ai voleri tirolesi, aveva concesso a vita a Sigismondo. C'era dunque una situazione di scarsa chiarezza dal punto di vista giurisdizionale e di conflitto latente, e non a caso, nella minuta di una lettera di Hinderbach del 1467, riguardante appunto la questione del giuspatronato, l'espressione ecclesia parrocchialis in Bozzano viene corretta con ecclesia parrocchialis oppi di nostri Bozzano. Nel 1471 fu la volta di Tesimo, parrocchia nella quale almeno dal 1423 i conti del Tirolo esercitavano un giuspatronato che negli anni 50 venne contestato e nel 1476 toccò al giuspatronato ducale su Montagna, riguardo al quale Hinderbach protestò di, cito, non essere informato. Riaprendo la vertenza per Bolzano, continuando quella per Tesimo e cautelandosi per Montagna perché la presentazione non pregiudicasse eventuali diritti dell'ordinario, Hinderbach si ergeva a convinto difensore degli Iura Ecclesiae Tridentine. Una tutela rigida dei diritti della propria Chiesa, in consonanza con la difesa delle temporalità episcopali residue di cui ieri si è parlato, che è una costante dell'azione di Hinderbach e che si esercitò nel confronto con il Vescovo di Verona, a proposito della giurisdizione su Borghetto all'Adige ai confini della diocesi, con signori reclamanti giuspatronati locali come gli Arco, infine con governanti veneziani come il provvisore di Riva, che a detta di Hinderbach si atteggiava a episcopus et pari. A questa fermezza sul piano dei principi corrispose il realismo dell'azione concreta. Nel 1467, con tutte le cautele del caso, Hinderbach investì comunque il candidato ducale della Pieve di Bolzano, prima temporaneamente, poi definitivamente, cito, perché vinto dalle preghiere del principe. Ugualmente a Tesimo, pur mantenendo impregiudicate le pretese ducali e proprie, sia nel 71 sia nel 72 procedette all'investitura di colui che era stato presentato da Sigismondo e a Montagna avanzò formale protesta, ma accettò la presentazione ducale. Il condizionamento tirolese è evidente e si manifesta anche in altre occasioni. Nel 78, vacante la cappella del castello di Fraxberg, Castel Verruca, di giuspatronato dei nobili di Aur, in mancanza di presentazioni da parte di questi ultimi, Hinderbach ritenne devoluto a se stesso il diritto di collazione, che però esercitò, cito, su preghiera e raccomandazione del duca. Nel 1485, nel riproporsi del contrasto per Salorno, nel 77 si era risolto con il confluire della scelta del preposito di San Michele sul candidato ducale, dicevo nell'85, allorché ci furono due presentazioni, l'una del preposito, l'altra di Sigismondo, il ruolo di Hinderbach fu determinante. Egli investì il candidato ducale in attesa che le parti chiarissero le proprie posizioni, ma spirato invano il termine e dichiarando il diritto di collazione devoluto all'ordinario, confermò ancora una volta il candidato ducale. Anche in campo ecclesiastico si evidenziano dunque i ristretti margini di manovra che il pesante condizionamento politico del tirolese lasciava al vescovo trentino. Di fronte alle capacità di pressione di Sigismondo, Hinderbach si mosse su un duplice piano. Consapevole che, sono parole sue, ciò che laici e potenti portano via anche una sola volta, a stento o quasi mai viene restituito, egli tentò di salvaguardare gli iura della Chiesa trentina appellandosi alla forza del diritto. E percorse l'unica via che la situazione di fatto gli lasciava aperta, disgiungendo presunzione di diritto e prassi di governo, associando il pragmatismo dell'azione concreta alla fermezza sul piano dei principi. Questa scissione fra i due livelli mi pare sia emersa già ieri quando, a proposito di comunità rurali, si distingueva fra le affermazioni teoriche in materia giurisdizionale da una parte, la duttilità dell'atteggiamento concreto dall'altra. E trova applicazione esemplare in altre vicende, come quella di Castelli Castelbarco, dei dazi della Valle Agarina, contesi fra Hinderbach e Venezia, sulla quale in altra sede si è soffermato Gian Maria Vanamini. Il principe del Tirolo fu di fatto il maggior concorrente del vescovo, mentre l'influenza della curia romana rimase limitata. Sulla base dello spoglio dei registri papali, delle annate e delle obligaciones et solutiones effettuato da Friedrich Schneller, durante l'episcopato Hinderbach si contano poco più di una trentina di collazioni papali, quasi la metà delle quali riguarda prebende capitolari, l'altra metà benefici curati e una cappellania. Tra le prime, cioè tra le prebende capitolari, 5 vennero cassate per motivi vari e delle 9 effettuate almeno 3 premiarono candidati locali. Un'altra fu in favore di un segretario imperiale. Tra le seconde, delle 11 effettuate, 5 avvennero per morte e 6 per rinuncia del precedente beneficiato, tutte tranne una con riserva di pensione, senza quindi che l'iniziativa fosse partita da Roma. Di queste 11, almeno 6, 4 su rinuncia e 2 per morte, si risolsero a vantaggio di elementi indigeni. Sulla base di questi dati, per quanto parziali, si può ritenere che la collazione straordinaria, cioè quella papale, non comportò affatto un'invasione di curiali, ma per una parte consistente non fece che ratificare scelte e assecondare giochi locali. Esisteva un filo abbastanza diretto con Roma, assicurato da personaggi come un approvino degli approvini, il noto oratore di Hinderbach nell'affare di Simonino, o un Ulrich Enzberger, canonico di Passau, legato a Conrad Hinderbach e forse allo stesso vescovo, insieme ad altri personaggi che varrebbe la pena di individuare, in grado di sollecitare in questa direzione la collazione straordinaria. Certo meriterebbero di essere approfonditi i motivi per cui ci si rivolgeva a Roma. Spesso la rinuncia nelle mani del Papa era un mezzo per evitare l'ingerenza dell'ordinario nelle richieste del successore, ma è già significativo che per 5 delle 7 provviste cassate il ricorso a Roma mirava semplicemente a garantire, mediante l'autorità papale, posizioni locali minacciate dalla concorrenza. In linea generale, questi risultati si armonizzerebbero con le conclusioni di Andreas Mayer circa il concordato di Vienna, che teoricamente anche per Trento regolava i rapporti tra collazione ordinaria e collazione straordinaria. Giudicato finora in modo negativo, il concordato è stato recentemente rivalutato dal Mayer, che ne ha individuato gli effetti nel rafforzamento del potere ordinario di collazione, nell'indebolimento del centralismo papale e nella tendenza alla regionalizzazione. Quanto però, almeno per la diocesi di Trento, questi risultati vadano direttamente collegati al concordato e non a un mutamento dei rapporti di forza tra papato e poteri ecclesiastici locali, resta da verificare. Come osservava Lechleitner, la curia evitò sempre di riconoscere la validità dei concordati per la diocesi di Trento, anche se, almeno a proposito dei benefici maggiori, di fatto vi si attenne. Per quanto riguarda Hinderbach, già nel 1465, nella protesta ufficiale avanzata in curia contro il ritardo con cui si provvedeva a confermare la sua elezione, egli si appellava ai concordati con la nazione germanica, dichiarando che la Chiesa trentina, cito, da 10, 20, 30, 40, 50 anni da tempo immemorabile, de nazione germanica extitit, et ad partes e ius dem nationis spectare semper reputata tenta et habita fuit, e affermando che i vescovi trentini avevano sempre partecipato ai concili e alle diete ut membrum dicte nationis. Nei casi di collazione controversa tra Roma e Trento, Hinderbach si appellò sempre ai concordati con la nazione tedesca, ma almeno in un caso, Sernonico nel 1478, egli pare averli tranquillamente ignorati per procedere rapidamente, senza attendere i 3 mesi prescritti, alla collazione che, essendo caduta in un mese dispari, sarebbe spettata a Roma. Il problema sulla validità e sull'efficacia dei concordati per i benefici minori, al di là dei risultati effettivi sulla spartizione delle collazioni che abbiamo visto, richiede dunque di essere ripreso sulla base di uno spoglio sul lungo periodo, al di qua e al di là dell'episcopato Hinderbach. Si può intanto rilevare come la discussione sull'appartenenza della diocesi alla nazione tedesca avesse probabilmente un aggancio e fosse alla base di quel tentativo di porre Trento e la diocesi trentina in un ambito di diritto consuetudinario, in qualche modo lontano dall'esperienza di diritto comune, con un preciso riferimento alle partes alemanie, tentativo presente nella produzione consiliare dei giuristi vicini a Hinderbach, sulla quale si è soffermato il professor Quaglioni. Ci sono dunque livelli diversi da considerare: l'applicabilità dei concordati, la prassi concreta nel conferimento dei benefici, il valore strumentale e polemico di certe discussioni. Il gruppo di collazioni in hinderbachiane si situa fra la lista dei benefici del 1309, esemplata e postillata per tutto il XV secolo, alcune liste del primo Cinquecento e l'elenco dettagliato ricavabile dalla visita pastorale di Bernardo Clesio del 1537-38, recentemente edita da Giovanni Cristoforetti. Le collazioni hinderbachiane colgono la diocesi in un momento di profonda mutazione e presentano una geografia diocesana in movimento, un movimento non ancora concluso all'epoca del Clesio. La terminologia usata nel designare le chiese oggetto di collazione permette di fissarne una tipologia: chiese parrocchiali, chiese cioè con la pienezza dei diritti di cura d'anime, le tradizionali plebes, termine quest'ultimo più desueto, nel quale tende a prevalere l'accezione di circoscrizione su quella di edificio ecclesiastico e di edificio sacro, altari e cappelle, spesso usati in alternanza, a indicare singoli edifici o altari presso i quali i beneficiati avevano l'obbligo di celebrare messe, e cappelle curate. In quest'ultimo caso si trattava di cappelle originariamente in tutto subordinate alla pieve, che progressivamente acquisirono funzioni proprie di quest'ultima, cimitero, fonte battesimale, un cappellano proprio con cura d'anime più o meno ampie. La posizione ambigua di queste cappelle si rispecchia nell'incertezza della terminologia. Il caso più eloquente è quello di Termeno, dove nel 1475, alla morte del rettore, la locale comunità elesse a plebanus et curatus della locale cappella curata colui che in precedenza vi aveva prestato i suoi uffici in qualità di socius e cooperator del pievano. Hindeba, accogliendo la presentazione, dava mandato al pievano di Caldaro di mettere il designato in possesso della chiesa. Sia quindi il caso di una chiesa con cura d'anime, con clero plurimo, adombrato appunto dall'espressione di soci che compare nella documentazione, addirittura con cappelle dipendenti, che però viene ancora definita cappella e che mantiene un pur labilissimo legame con la pieve originaria, quella di Caldaro, adombrato nell'ordine di immissione in possesso rivolto al pievano di Caldaro. Una terminologia dunque che stenta a mantenere il passo con una realtà in decisa evoluzione, contraddistinta dalla moltiplicazione delle chiese con cura d'anime. Fenomeno dalle ampie e note dimensioni italiane e europee, fenomeno di lungo periodo da considerarsi non disgiunto da un'indagine sull'organizzazione del territorio, sulle autonomie delle singole comunità, sul loro sviluppo, sul loro assetto e sviluppo economico-sociale. In questa sede interessa l'atteggiamento di Hindeberg. Hindeberg fu, senza eccezioni, favorevole alla promozione di queste cappelle, che certamente rappresentavano un miglioramento e un incremento del servizio pastorale. Il suo ruolo, tuttavia, non si limitò alla conferma di atti dei suoi predecessori. Scontata, se si vuole, di transazioni già stipulate localmente tra le comunità e i pievani interessati. Pur nella ripetitività del formulario, alcuni indizi sul suo orientamento di fondo sono rintracciabili laddove si integra l'accordo già preso in sede locale o in tempi precedenti e laddove è il vescovo stesso, apparentemente senza mediazioni, a fissare le condizioni della promozione di una cappella. Emergono elementi interessanti, innanzitutto a proposito dei rapporti che, secondo Hindeberg, dovevano sussistere tra le cappelle così promosse e la chiesa matrice. La clausola circa i diritti preminenti della pieve, presente nella maggior parte degli atti in questione, non era una formula vuota, ma rifletteva un preciso orientamento vescovile. Nel 1481, è il caso in cui Hindeberg intervenne in prima persona, egli richiedeva che il cappellano di Peio venisse eletto dal pievano e dagli uomini della comunità e garantiva al pievano e alla pieve il pieno godimento dell'insieme dei diritti parrocchiali, decime, quartesi, offerte. Non c'era dunque un semplice riconoscimento dei segni ricognitivi della superiorità della pieve, ma un più fondante diritto alla nomina, seppure in condominio, del cappellano e la conferma dell'intangibilità del patrimonio pievano, intangibilità che attraverso pattuizioni locali aveva invece subito altrove impoverimenti, prestandosi a parziali concessioni dei quartesi o a riscatto. Il preciso interesse a non scalfire la base economica pievana risalta dalla fermezza con cui nel 1484 Hindeberg interveniva a revocare la sua concessione di un cappellano proprio alla comunità di Fiavè, che era in lite con la chiesa parrocchiale a proposito delle decime novali, e questo nel timore che la concessione potesse diventare un'occasione per danneggiare la chiesa matrice. Ancora dall'atto relativo a Peio spicca la preoccupazione di garantire all'istituendo cappellano un salario conveniente che gli permettesse di vivere onestamente. La stessa precisazione viene a integrare la vecchia concessione di Giorgio Hack agli uomini di Predazzo, mentre nel confermare la cappellania di Barbiano, anch'essa risalente all'epoca di Hack, Hindenburg ritenne opportuno ribadire la norma del primitivo atto di fondazione che prevedeva l'obbligo di rifinanziare il salario del cappellano in caso di impoverimento. Da tutto ciò pare dunque risaltare un'attenzione effettiva al decoro dello Stato chiericale e alle condizioni economiche del basso clero, colpito, come è noto, alla fine del basso medioevo da una considerevole diminuzione delle rendite. Un ulteriore elemento che si pone su un piano leggermente diverso, illuminando la sensibilità di Hindenburg, può essere ricavato da questi atti di promozione delle cappelle. La concessione a Peio contemplava l'obbligo di tenere illuminato giorno e notte il tabernacolo e con la stessa prescrizione Hindenburg integrava il patto già stipulato dall'arciprete di Lizzana con gli uomini di Terragnolo per la cappella di questi ultimi. Come ha mostrato Zelina Zaffarana, i canoni sinodali italiani che prescrivevano l'uso del lume davanti alla riserva eucaristica si intensificarono alla metà del 400 e il tabernacolo con la lampada perpetua ebbe un ruolo essenziale nella trasformazione della Chiesa in luogo della presenza eucaristica, oggetto continuo di culto. In alcuni casi le cappelle curate furono di giuspatronato popolare, cioè le locali comunità godettero della prerogativa di presentare il proprio pastore. È importante sottolineare questo aspetto, come ha già fatto Cristoforetti, perché fu la promozione di cappelle delle quali avevano il giuspatronato che permise ad alcune comunità di affermarsi accanto a signori laici e monasteri con propri diritti di patronato su chiese curate. Nei confronti dei giuspatronati popolari, Hindenburg manifestò lo stesso scrupolo legalistico che aveva dimostrato verso altri giuspatronati. Nei casi in cui non era del tutto convinto del diritto della comunità, nella collazione intervengono locuzioni particolari, come su preghiera e stanza degli uomini del tal luogo che pretendono il giuspatronato, eccetera. In generale, però, Hindenburg non contestò alcuna presentazione delle comunità. Va detto che, a parte Termeno, si trattava di benefici modestissimi e poco appetibili. Anzi, talvolta accolse le loro richieste anche per cappelle e parrocchie di libera collazione vescovile. Emerge piuttosto nettamente in Hindenburg l'attenzione nei confronti delle comunità rurali. Non si trattava semplicemente di venire incontro alle suppliche a favore o contro questo o quel prete, avanzate da comunità qui come altrove sensibilissime ai problemi della cura d'anime e in particolare attente alla gestione economica della dote delle chiese e alla manutenzione degli edifici ecclesiastici, ma di un riconoscimento effettivo del diritto della comunità a esprimersi a proposito del proprio pastore. È significativo che nel 1468, in una questione tutta legale, tutta clericale, l'arciprete di Nago, dopo aver rinunciato alla carica e aver indicato il successore, era ritornato sulla sua decisione, entrando in lite con il successore mancato, di cui una causa con tanto di pareri giuridici. Hindenburg, pur impegnato a trovare una soluzione di compromesso, non ignorò la comunità, ma anzi ne sollecitò un pronunciamento ufficiale nei confronti del nuovo prete. In Hindenburg la vicinia è, come ovvio, l'orizzonte di riferimento immediato della vita ecclesiale ed è anche la pubblica opinione abilitata a giudicare l'operato del chierico e del laico. La lettera Pastoralis Officii Sollicitudo del 1472 in materia di concubinato è tutta costruita sulla dialettica clero-laicato-vicinia e individua nei vicini e parrocchiani un elemento attivo con una sua sfera autonoma di giudizio nella vigilanza sulla condotta morale di preti e di laici. E Hindenburg valorizza questo tipo di funzioni della realtà comunitaria al punto da coinvolgere dei vicini in un'ispezione canonica, e cioè nella visita dell'ospedale di Campiglio nel 1478, diventato ricettacolo di irregolari e di inutili. La visita fu appunto affidata al priore di Frescanomina, al massaro delle giudicarie e, se necessario, ad alcuni vicini onesti e gravi. In una realtà ecclesiale frammentata, dove la figura del vescovo era evanescente e la visita pastorale strumento poco usuale, la vicinia veniva a costituire una sorta di coscienza vigile del clero. Nello sforzo di incidere su una realtà la cui opacità tanti indizi concorrono a delineare, Hinderbach non disdegnò i mezzi offertigli dalla vicinia, dalla comunità parrocchiale. Se il caso di Campiglio fu eccezionale, altri furono i mezzi adottati da Hinderbach in materia di disciplina ecclesiastica. Nel 1472 Hinderbach interveniva con fermezza, anche se con scarso successo, contro il concubinato, dando dettagliate e severe disposizioni per chierici e laici, introducendo i riti vigenti in Germania circa l'ammonizione e la denuncia dei concubinari impenitenti e ventilando la possibilità di istituire speciali visitatori nei vari distretti con compiti di punizione e correzione. Hinderbach stabiliva un nesso preciso fra le colpe del clero e il discredito per tutto l'ordine clericale, la sottrazione di decime e di altre offerte, la distrazione dei lasciti e dei legati pii dalle chiese parrocchiali a frati religiosi o altri vagabondi questuari. Qui mi pare emerga nuovamente questa preoccupazione per la tutela delle strutture ecclesiastiche di base. Nella prospettiva di un controllo rigoroso del clero, di una marcatura stretta dei sacerdoti della diocesi, credo che possa essere interpretata anche l'inaugurazione, nel 1478, del Registrum Presbyterorum et Fratrum per Diocesim Tridentinam Admissorum. Ringrazio Padre Gretta per avermi gentilmente concesso le sue trascrizioni del registro. Presentatisi al Vescovo, pievani, vicari, cappellani e preti senza fissa dimora gli sottoponevano le proprie credenziali richiedendo la missione nella diocesi. La registrazione, proseguita gli anni successivi, prevedeva il controllo delle lettere sull'assunzione degli ordini minori e maggiori e delle dimissorie per chierici provenienti da altre diocesi. Nel registrum non si fa netta distinzione fra livelli diversi di licenza, autorizzazione a celebrare la messa e autorizzazione all'esercizio della cura d'anime. Talora si parla di ammissione in forma generale, di licenza celebrandi o di licenza all'esercizio della cura animarum, ma il più delle volte si parla genericamente di ammissione, mentre solo per i religiosi si distingue sistematicamente il tipo di ammissione concessa, in genere estremamente limitata nel tempo. Nel registro, che pure talora commenta o integra gli scarni dati anagrafici, non si accenna neppure ad alcun esame previo circa la preparazione culturale e liturgica, previsto ad esempio a Padova per la concessione della licenza per l'esercizio della cura d'anime durante l'episcopato di Pietro Barozzi, 1487-1506. I casi di sospensione o rinvio sono in generale motivati dalla mancanza, dall'inaffidabilità o dall'insufficienza delle lettere, e solo eccezionalmente la missione appare vincolata a un certificato di buona condotta che doveva essere rilasciato dal pievano presso il quale il prete avesse esercitato il suo ministero. Va sottolineato che Hinderbach, tranne alcune eccezioni, procedette personalmente all'esame dei singoli sacerdoti. L'importanza che egli annetteva all'approvazione e alla missione vescovile viene confermata da una sua integrazione autografa agli statuti della canonica di Bolzano, da lui rivisti personalmente. È quella volontà di tutto controllare e tutto vistare che è emersa anche ieri ed è spia di un preciso orientamento nel governo pastorale. Integrazione autografa, diceva, questi statuti, con la quale vincolava l'accoglimento nella canonica alla missione da parte vescovile. Ad nos remissi, approbati et admissi per litteras nostras patentes. Altrettanto significativa l'inserzione, nella concessione di un cappellano proprio alla comunità di Peio, di una clausola secondo cui il cappellano doveva essere, cito, approvato e ammesso dal vescovo. È quell'atto in cui Hinderbach interviene in prima persona nella concessione del cappellano. Tanto più urgente appariva la necessità di controllo se si considera la prassi diffusa della non residenza, che spingeva all'utilizzazione di preti avventizi non soggetti a un controllo vescovile diretto, ma scelti dai titolari del beneficio, spesso in base, ero arrivata a Peio. Il registro non è semplice testimonianza di una concezione moderna dell'organizzazione curiale, non fu una mera innovazione amministrativa. Cioè, è un'innovazione che ha alla base, che rivela un programma di governo diocesano. E certo meriterebbe di essere indagata anche l'organizzazione della cancelleria vescovile. C'è in epoca hinderbachiana un notevole incremento del materiale, come è stato notato anche ieri. C'è un'attività di registrazione di cui rimangono solo labili tracce. E non è un caso se proprio le collazioni hinderbachiane costituirono il nucleo iniziale, quantitativamente consistente, dei libri investiturarum redatti all'epoca del Clesio, nei quali venivano raccolte le collazioni. Allora, dicevo che è qualcosa di più. Nel 1478, azzerando le precedenti ammissioni, fu effettuato un vero e proprio censimento dei sacerdoti viventi nella diocesi. Il registro veniva così a costituire un'anagrafe, una schedatura dei sacerdoti diocesani via via aggiornata, fornendo uno strumento di controllo nelle mani dell'ordinario. La necessità di controllo si poneva soprattutto perché il ministero sacerdotale era esercitato in grandissima maggioranza da preti forestieri e il registro con le sue annotazioni conferma ulteriormente l'itineranza di aspiranti chierici per diocesi diverse al fine di ottenere gli ordini minori e maggiori. È anzi possibile utilizzare statisticamente questi dati e redigere un vero e proprio stato dei preti della diocesi. Tanto più urgente appariva la necessità di controllo se si considera la prassi diffusa della non residenza, che spingeva all'utilizzazione di preti avventizi non soggetti a un controllo vescovile diretto, ma scelti dai titolari del beneficio spesso in base a considerazioni di pura convenienza economica. Ancora il registro offre dati estremamente interessanti sulla non residenza, attestata in percentuale molto alta e anche permette di stabilire le aree, le parrocchie di diffusione. Hinderbach, tuttavia, non ebbe eccessiva preoccupazione per un obbligo di residenza generalizzato. L'interesse per la continuità del ministero pastorale emerge da più di un suo atto, ma ciò non vuol dire che egli si sia battuto per affermare un obbligo di residenza dei titolari dell'ufficio. Hinderbach stesso, del resto, procede a accumulare benefici in favore dei suoi collaboratori più stretti, propone loro benefici più redditizi, tollera la non residenza concedendo loro anche chiese curate. Circa i criteri da lui seguiti nella collazione dei benefici è significativo il caso della cappella vescovile di Sant'Andrea di Bolzano. Nel 1474 Hinderbach ne investì un ragazzo di 14 anni che aveva solo la prima tonsura in considerazione dei servigi prestati dal padre al vescovo Hack e dal patrigno Fidelis Noster Dilectus al precedente rettore della cappella. La speranza era che il ragazzo potesse continuarne l'opera. Il ragazzo rimase in possesso del beneficio fino alla sua morte nel 1483. In quei 9 anni non aveva assunto gli ordini, ma era rimasto un semplice chierico. Nell'utilizzare il beneficio ecclesiastico come risorsa per il funzionamento della curia e per alimentare la propria clientela, Hinderbach applicava quei meccanismi di collazione beneficiaria che prima dell'episcopato aveva sperimentato di persona. E il professor Sternad lunedì ce l'ha mostrato in questa attività di accumulazione dei benefici. Del resto, se è vero che la residenza era il primo degli impegni che solitamente la comunità richiedeva al suo pastore, si diede anche il caso di un chierico roveretano presentato per la locale cappella curata di San Marco da parte dell'arciprete Contarini, ecclesiastico impegnato e figura di notevole statura intellettuale, e dei rappresentanti di Rovereto, cioè quindi dai rappresentanti della comunità locale. La comunità stessa, interessata a fornire di un beneficio un indigeno e a coltivarsi un prete in loco, difatti il chierico avrà una carriera tutta locale, non ebbe scrupoli né fa propria l'usuale distinzione tra beneficium e officium che consentiva appunto la non residenza del titolare del beneficio. Se a questo punto si volesse tentare un bilancio dell'episcopato Hinderbach, si potrebbe legittimamente concludere per un vescovo che, messe da parte ulteriori aspirazioni, residente stabilmente a Trento, si impegna a fare il vescovo. Un governo della diocesi caratterizzato da prudenza e pragmatismo nei confronti dell'invadenza degli avvocati della Chiesa trentina, dall'amministrazione oculata, dalla fermezza nei confronti di elementi di turbativa, dal rispetto per la lettera della legge e per le norme procedurali. Per quanto attiene all'attività più propriamente pastorale, piuttosto che una cura d'anime in positivo, pare privilegiato l'elemento giuridico disciplinare e inquisitoriale. Compito imposto al vescovo dal Pastoralis Officium è guadagnare al Cristo le anime dei sudditi. Quod maxime tunc nos facere credimus, cum vitia et peccata extirpemus. Cioè, questo si legge in una sua renga. Complice anche la qualità delle fonti sollecitate, in Hinderbach emerge il magistrato severo, il giurista, il politico, l'amministratore puntiglioso. Un'attività di ordinaria buona amministrazione che non fa notizia, non trova memoria nell'epitafio di Hinderbach, ma non fu per questo, credo, meno efficace e decisiva. Credo che abbiamo seguito tutti con vivo interesse questa relazione della dottoressa Rando, e per questo la ringraziamo. È una relazione che ha messo in evidenza tre linee, mi pare di poter così riassumere, fondamentali dell'azione dell'Hinderbach: la difesa dei diritti della Chiesa tridentina, difesa che si esercita nei confronti di tutti, Verona, Venezia, e che però ha maggiore attenzione, perché più vicina e più pressante, è la questione della difesa dei diritti della Chiesa tridentina nei confronti del Tirolo. La seconda linea di azione è quella, per dir così, interna alla diocesi, di promozione delle cappelle curate, e infine questo interessantissimo vero quadro finale del coinvolgimento delle comunità locali e dell'azione dell'Hinderbach in materia di disciplina ecclesiastica, di costumi. La ringraziamo moltissimo, credo che la discussione poi un poco la chiamerò in causa. Di nuovo.